Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Il gusto delle solite cose sembrava cenere nella sua bocca. E c'erano momenti in cui aveva la sensazione di essere sepolto vivo nel proprio avvenire. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Mettetevi comodi. Stiamo per raccontarvi L'età dell'innocenza di Martin Scorsese. Nella New York del XIX secolo, Newland Archer è un giovane e ricco avvocato in procinto di sposare la giovane e aristocratica May Welland. Il ritorno della contessa Ellen Olenska, donna affascinante, intelligente e sofisticata, fuggita dall'Europa e dal marito infedele, metterà in crisi i progetti di Archer e il rapporto con May e porterà lo scandalo nella noiosa e ottusa alta società newyorkese dell'epoca. Audiogrammi in radio come al cinema. Agli inizi degli anni 70 del 1800, una sera di gennaio, Kristin Nilsson cantava nel Faust all'Accademia di Musica di New York. Quando Newland Archer aprì la porta del palco riservato al club, il sipario si era appena levato sulla scena del giardino. Appoggiato alla parete di fondo del palco del club, distolse lo sguardo dal palcoscenico e scrutò il lato opposto della sala. Proprio di fronte a lui c'era il palco della vecchia vedova di Manson Mingott, alla quale la mostruosa obesità impediva da lungo tempo di essere presente all'opera. In quel momento la prima fila del palco era occupata dalla nuora, la moglie di Lovell Mingott, da sua figlia, la signora Welland, e in posizione un po' arretrata era seduta una fanciulla bianco vestita che fissava estatica gli innamorati in scena. Non credevo che i Mingott sarebbero arrivati a tanto. Metterla in mostra all'opera in questo modo, farla sedere vicino a May Welland, è tutto molto bizzarro. Anche lei ha condotto una vita bizzarra. Voi supponete che la porteranno perfino al ballo dei Beaufort? Se lo faranno, si metteranno sulla bocca di tutti. Non si parlerà d'altro. Lawrence Lefferts era la massima autorità a New York in materia di forma. Le sue opinioni sulla moda erano ascoltate da tutti e quanto ad amori clandestini, la sua esperienza era fuori discussione. Newland Archer, seguendo lo sguardo di Lefferts, si accorse con stupore che l'esclamazione di quest'ultimo era stata provocata dall'ingresso di un nuovo personaggio nel palco della vecchia signora Mingott. Si trattava di un'esile ragazza, la cui chioma era disposta in riccioli serrati attorno ad una stretta benda di diamanti. Quanto suggeriva questa acconciatura era completato dal taglio del vestito di velluto blu scuro, teatralmente trattenuto in alto, sotto il seno, da un busto munito di una grande fibbia all'antica. Colei che si esibiva in questo insolito abbigliamento, sembrando non accorgersi dell'attenzione che stava suscitando, restò un attimo in piedi al centro del palco, parlando con la signora Welland. Poi sedette accanto a lei. L'atto stava per terminare e nel palco tutti si mossero per uscire. Improvvisamente, Newland Archer si sentì spinto a compiere un gesto decisivo. Entrare per primo nel palco della signora Mingott e annunciare alla gente, ansiosa di sapere, il suo fidanzamento con May Welland, anche lei seduta lì. La signora Welland salutò il futuro genero e gli presentarono la donna che aveva già destato tanto scalpore. Newland si inchinò senza tendere la mano. Buonasera, signora Welland. Buonasera, May. Newland, conoscete mia nipote, la contessa Oleska? La scena si ripeteva ogni volta identica, come tutto del resto a quel tempo. Come di consueto, la signora Beaufort compariva, non accompagnata dal marito, poco prima dell'area dei gioielli. E sempre, come di consueto, si alzava alla fine del terzo atto e scompariva. Tutta New York allora sapeva che mezz'ora più tardi avrebbe avuto inizio il ballo annuale dei Beaufort. Newland Archer, come si addiceva a un giovanotto della sua posizione, era arrivato piuttosto tardi. Era chiaramente nervoso, voleva che l'annuncio del suo fidanzamento allontanasse i pettegolezzi dalla contessa e mostrasse il suo sostegno a May e a tutta la sua famiglia. Temeva proprio che i Mingott potessero spingersi troppo oltre e che effettivamente nonna Mingott avesse ordinato loro di portare al ballo la contessa Olenska. A giudicare dal tono delle chiacchiere colte nel palchetto riservato al club, aveva capito che un gesto del genere sarebbe stato un grave errore. Continuando a girovagare fino al salotto, Newland trovò la signora Welland e sua figlia in piedi vicino alla porta della sala da ballo. May era bella come una dea Diana appena reduce dalla caccia. Al termine del ballo, i due, come si addiceva ad una coppia di fidanzati, passeggiarono senza meta nella serra e May disse: «Visto? L'ho annunciato a tutti gli amici, come mi avevi chiesto.» «Non potevo aspettare. Mi dispiace averlo fatto a una festa da ballo.» «Ma anche qui possiamo stare soli, non è vero?» «La cosa peggiore è che desidero baciarti. E non posso farlo.» «L'hai detto a Ellen come ti ho chiesto?» «No, non ne ho ancora avuto l'occasione.» «È mia cugina, Newland. Se gli altri lo sapranno prima di lei. È solo che è stata via così tanto tempo. È piuttosto sensibile.» «Certo che glielo dirò, mia cara, ma non l'ho ancora vista.» «Lei ha deciso di non venire all'ultimo momento.» «All'ultimo momento?» «Temeva che il suo vestito non fosse abbastanza elegante. A noi invece sembrava così bello, ma lei ha chiesto alla zia di accompagnarla a casa.» «Ho capito.» Il giorno dopo ci fu lo scambio delle consuete visite di fidanzamento. In circostanze del genere, il rituale di New York era preciso e inflessibile. La signora Welland e May si recarono dalla vedova Mingott per ricevere la benedizione di quella veneranda progenitrice. La visita si svolse con successo. La vecchia signora Mingott era lietissima per il fidanzamento, che, pianificato da tempo da parenti premurosi, era stato approvato con tutte le cautele del caso. Anche l'anello di fidanzamento, costituito da un grosso e pesante zaffiro incastonato con gancetti invisibili, ottenne la sua incondizionata approvazione. Improvvisamente chiese: «E quando sarà il matrimonio?» «Oh! Non appena sarà possibile, se mi sosterrete, signora Mingott.» «Devono avere il tempo di conoscersi un pochino meglio, mamma.» «Conoscersi? A New York non ce n'è bisogno, si conoscono tutti da sempre. Non aspettare che lo champagne perda le bollicine, sposali prima della quaresima. Ogni inverno rischio la polmonite e voglio dare io il rinfresco nuziale.» La visita si stava concludendo tra amabili battute di spirito quando la porta si aprì per far passare la contessa Olenska, la quale entrò indossando un cappellino e una mantella, seguita dalla inaspettata figura di Beaufort. Nell'atrio, mentre la signora Welland e May si infilavano le pellicce, Newland Archer si accorse che la contessa Olenska lo stava guardando con un sorriso vagamente interrogativo e decise di rispondere allo sguardo dandole la notizia del fidanzamento. «Voglio un bel pettegolezzo.» «Naturalmente saprete già di May e di me. Mi ha sgridato perché non ve l'ho detto ieri sera all'opera.» «Certamente lo so e ne sono tanto felice. Non si può parlare di certe cose in mezzo alla gente.» «Arrivederci.» «Arrivederci, Ellen.» «Arrivederci.» «Arrivederci.» «Venite a trovarmi un giorno.» Li salutò continuando a fissare Archer con un sorriso che la rendeva più giovane, più simile alla Ellen Olenska che lui conosceva da adolescente. Uscendo, la signora Welland, madre di May, non poté non notare. Ellen sbaglia a mostrarsi con Julius Beaufort per la quinta strada. All'ora delle compere. Il giorno dopo il suo arrivo. Lui si comporta sempre in modo scandaloso. Perfino la moglie saprà di Annie Ring. La sera seguente il vecchio signor Jackson andò a cena dagli Archer. La madre e la sorella di Newland erano molto riservate e rifuggivano la mondanità, ma gradivano essere ben informate di quanto vi avveniva. Il loro vecchio amico Sillerton Jackson, nell'indagare sulle faccende altrui, applicava la pazienza di un collezionista e la scienza di un naturalista, e perciò le due donne ascoltavano sempre con attenzione l'amico scapolo. E la nostra nuova cugina, c'era anche lei al ballo? Apprezzo che i Mingott vogliano sostenerla portandola all'opera. Ammiro molto il loro esprit de corps. Ma che il fidanzamento di mio figlio debba avere qualcosa a che fare con gli andirivieni di questa donna, io non lo capisco. Beh, in ogni caso non era al ballo. Se non altro ha avuto questa decenza. Nel pomeriggio porterà un cappello con le falde, una cuffia. Il vestito che indossava all'opera era così semplice e insignificante. In ogni modo ha dimostrato buon gusto non andando al ballo. Non si è trattato di buon gusto. La contessa ha ritenuto il suo vestito non abbastanza elegante. Povera Ellen. Dobbiamo sempre ricordare l'educazione eccentrica che ha ricevuto. Una ragazza che indossa un abito di satin nero al suo ballo di debuttante. È strano che si sia tenuta un nome così brutto quando sposò il conte. Io l'avrei cambiato in Elaine. Perché? Non lo so, ha l'aria più polacca. Mm-hmm. Certamente si fa notare di più e non credo affatto che sia ciò che desidera. Newland iniziò ad irritarsi e rispose alla madre. Perché no? Perché non dovrebbe farsi notare se ne ha voglia? Ha fatto un cattivo matrimonio, ma dovrebbe nascondersi come se fosse colpa sua. Dovrebbe strisciare lungo i muri come se si fosse disonorata. Ha avuto una vita infelice, non per questo va messa al bando. Sono certo che i Mingott seguiranno questa linea. Non ho bisogno dei loro suggerimenti, signore. A quanto mi dicono, lei sta cercando casa. Ha intenzione di vivere qui. Io ho sentito che vuole chiedere il divorzio. Spero che lo faccia. Finita la cena, Newland Archer fece accomodare il signor Jackson in una poltrona accanto al fuoco nella biblioteca gotica e gli offrì un sigaro. Sillerton Jackson proseguì. Ci sono state anche delle voci. Le ho sentite, il suo segretario. L'ha aiutata a fuggire dal marito. Dicono che il conte la tenesse praticamente segregata. Certo, il conte aveva un suo stile di vita. Lo conoscevate? Ne ho sentito parlare a Nizza. Attraente, dicevano, ma con le ciglia molto ben curate. Quando non stava con delle donne, collezionava porcellane. Pagava qualunque cifra per entrambe. E allora qual è la sua colpa? Chiunque di noi in quelle circostanze avrebbe aiutato la contessa, come ha fatto il segretario. Allora un anno dopo la stava ancora aiutando, perché qualcuno li ha visti a Losanna che vivevano insieme. Vivevano insieme? E perché no? Chi ha il diritto di ricostruire la sua vita se non lei? Perché seppellire viva una donna se suo marito preferisce delle prostitute? Oh, io non parlerei affatto di seppellimento. La contessa è qui, dopo tutto. Credete che una donna debba avere la stessa libertà degli uomini? Suppongo di sì, sì, è così. A quanto pare il conte Olenski ha le stesse vostre vedute moderne. Mi risulta che non abbia mosso un dito per riavere la moglie. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. I Mingott avevano diramato gli inviti per quella che veniva definita cena ufficiale per presentare la contessa Olenska, secondo la voga ospitale americana che tratta gli stranieri come fossero rampolli di famiglie reali. 48 ore più tardi era accaduto l'incredibile. Tutti avevano declinato l'invito. Spiacenti di non poter accettare, anche dalla nostra stessa famiglia. Non si fanno il minimo scrupolo, anche solo di nascondere i propri sentimenti. Newland Archer, chiamato a patrocinare la causa della famiglia Mingott, con cui presto si sarebbe imparentato, decise di rivolgersi, insieme a sua madre, ai Van der Leyden. I Van der Leyden, diretti discendenti del primo governatore olandese di Manhattan, erano molto importanti e tenuti in alta considerazione e sovrastavano tutti dall'alto della loro vita riservata. Archer parlò apertamente e spiegò che il fallimento della cena in onore della contessa Olenska era sicuramente legato all'intromissione di Lawrence Lefferts. Ogni volta che la povera Gertrude Lefferts sospetta suo marito di qualcosa, Larry inizia delle manovre diversive per convincerla della sua alta moralità. Ebbene, è il principio che io disapprovo. Intendo dire che se un membro di un'insigne famiglia viene sostenuto dalla famiglia stessa, ciò deve essere considerato definitivo. Abbiamo ritenuto che non si dovesse passare sopra questo affronto alla contessa senza consultarvi. Allora daremo una piccola cena per nostro cugino, il duca di Sentostri, che arriverà la prossima settimana con in Russia. Sono certo che Luisa sarà felice quanto me se la contessa Olenska ci permetterà di includerla tra i nostri invitati. La circostanza era molto solenne e la contessa Olenska arrivò al ricevimento dei van der Leyden con un certo ritardo, ancora senza guanti e chiudendosi un braccialetto attorno al polso. Tuttavia, senza mostrare di aver fretta o di provare imbarazzo, fece il suo ingresso nella sala in cui era raccolta in maniera alquanto insolita la compagnia più selezionata di New York. Finita la cena, gli uomini si unirono alle signore e il duca andò difilato dalla contessa Olenska. Si sedettero in un angolo e si immersero in una animata conversazione. I due chiacchierarono per una ventina di minuti, dopodiché la contessa si alzò e, attraversando da sola il vasto salone, andò a sedersi accanto a Newland Archer. Nei salotti di New York non si usava che una signora si alzasse e si allontanasse da un gentiluomo per cercare la compagnia di un altro. Ma a quanto pareva la contessa non si era accorta di aver infranto qualche regola. Sedeva perfettamente a suo agio in un angolo del divano accanto ad Archer, guardandolo con gli occhi molto affettuosi. Conoscevate già il duca? Sì, da Nizza. Lo vedevamo ogni inverno. Adora giocare d'azzardo e frequentava molto la nostra casa. Gli piace indossare lo stesso abito tutte le sere. Crede che gli porti fortuna. È l'uomo più noioso che abbia mai conosciuto. Ma vedo che qui invece è molto considerato. Posso dirvi cosa mi interessa maggiormente di New York? Certo, non tutta quella cieca obbedienza alle tradizioni, poi alle tradizioni di altri. Mi sembra sciocco aver scoperto l'America solo per farne la copia di un altro paese. Secondo voi Colombo si sarebbe preso tutto quel disturbo solo per andare all'opera con Larry Leffer? Beh, credo che se avesse sospettato che qui c'era Leffers, la Santa Maria non avrebbe mai lasciato il porto. E May, la pensa così anche lei? Se anche fosse, non lo direbbe mai. Voi siete molto innamorato di lei? Quanto può esserlo un uomo? Credete che esista un limite? Se esiste, io non l'ho ancora trovato. Ah, si può. Allora è veramente un'unione sincera. Non è stata combinata. Avete dimenticato che nel nostro paese non permettiamo che si combinino i matrimoni. Ora vorrete stare con me? È già circondata da così tanti rivali. Sì. Allora restate con me ancora un po'. Sì. Signor Urban Dagonet, posso presentarle la contessa Olenska? Piacere, contessa. Il piacere è mio. Allora domani vi aspetto dopo le 5. A domani. Scusate. La contessa aveva detto dopo le 5 e mezz'ora dopo le 5 Newland Archer suonò il campanello della casa in fondo alla 23esima strada che Ellen aveva preso in affitto. Cominciò ad entrare e vide al chiarore del lume una stanza al cui fascino dai contorni nebulosi la rendeva diversa da qualsiasi altra a lui nota. Sul selciato della strada silenziosa risuonò lo scalpitio di un cavallo dall'andatura veloce che si arrestò davanti alla casa. Scostando le tende, Newland guardò fuori e vide la carrozza chiusa di Julius Beaufort. Il banchiere scese e aiutò a scendere Madame Olenska. I due si salutarono e lei entrò. Signor Archer, allora, che ne pensa di questa strana piccola casa? Per me è il paradiso. L'avete arredata in modo incantevole. Sì. Se non altro è meno tetra della casa dei van der Leyden. È meno difficile stare da sola. Sono sicuro che molti trovano tetra la casa dei van der Leyden, anche se non l'ho mai sentito dire prima d'ora. Ma ditemi, vi piace davvero stare sola? Certo, purché gli amici mi salvino dalla solitudine. Questa è l'ora che mi piace di più. A voi no? Temevo che aveste dimenticato l'ora. Sono sicuro che Beaufort sa essere molto coinvolgente. Mi ha portato a vedere alcune case. Mi dicono che devo trasferirmi. Anche se questa strada mi sembra del tutto rispettabile. Sì, ma non è elegante, non è alla moda. Alla moda? E la moda è tenuta in così seria considerazione? Tra persone che non hanno niente di più serio da considerare. Adesso ciò che desidero veramente è sentirmi protetta e sicura. I van der Leydens non conoscono mezze misure. C'era tutta New York a rendervi omaggio ieri sera. Sono stati così cortesi, che bella festa. I van der Leydens hanno una grandissima influenza sulla società di New York. Ricevono di rado per via della salute della cugina Luisa. Allora forse questa è la ragione. La ragione? Della loro influenza e che si rendono così preziosi. Ma naturalmente siete voi che dovete dirmelo. No, siete voi che lo dite a me. Forse possiamo aiutarci a vicenda, ma io ho bisogno di molto più aiuto. Tuttavia la vostra famiglia può consigliarvi, indicarvi il cammino. Non c'è nessuno qui che vuol conoscere la verità, signor Archer. La vera solitudine è vivere tra queste persone gentili che ti chiedono soltanto di fingere. No, no, non dovete. Madame Olenska, Ellen. Non c'è nemmeno nessuno che pianga qui. Immagino che non ce ne sia bisogno. Newland le aveva preso una mano, tenendola stretta e scaldandola come quella di un bambino, mentre mormorava parole di conforto. Ma in un attimo lei si liberò e lo guardò con le ciglia umide di pianto. New York e la sua futura moglie sembravano lontane mille miglia. Appena si trovò fuori, nel freddo della sera, la città tornò immensa e vicina e May Welland la donna più adorabile che ci fosse. Entrò dal suo fioraio per mandarle la scatola quotidiana di mughetti, che si era accorto di essersi dimenticato di farle avere quel mattino. Mentre scriveva un saluto sul suo biglietto da visita e aspettava di avere una busta, si guardò in giro nel negozio pieno di piante e l'occhio gli cadde su un mazzo di rose gialle. In un improvviso mutamento d'umore e quasi senza sapere ciò che faceva, le indicò al fioraio, ma decise di non mettere il proprio biglietto da visita ad accompagnare la scatola. E anche quelle rose gialle. Vi do un altro indirizzo. Benissimo. George, per il signor Archer, due ordinazioni distinte. Partono subito. Immediatamente, signore. Il giorno dopo convinse May a uscire di nascosto per andare a fare una passeggiata nel parco dopo colazione. La giornata era deliziosa e la temperatura metteva in risalto la bellezza radiosa di May. Archer era orgoglioso degli sguardi che le lanciavano e la semplice gioia di possederla aveva fatto piazza pulita di tutte le sue perplessità. È meraviglioso svegliarsi ogni mattina con i tuoi mughetti nella stanza. È come essere con te. So che sono arrivati tardi ieri. Non so come, ma il tempo mi è volato. Comunque te ne rammenti sempre. Ho mandato delle rose anche a tua cugina Ellen. Ho fatto bene? Benissimo. Oggi a pranzo però non ne ha fatto cenno. Ha detto che aveva ricevuto delle magnifiche orchidee dal signor Beaufort e un intero cesto di garofani dal cugino Harry van der Leydens. Era così incantata. So che per te è un periodo lungo. Lunghissimo. Ma i Chivers sono stati fidanzati un anno e mezzo, Larry Leffers e Gertrude addirittura due. Sono sicura che la mamma preferisce seguire la tradizione. I tuoi genitori ti hanno lasciato fare a modo tuo fin da bambina. Ora hai quasi 22 anni. Devi solo dire a tua madre quello che vuoi. Non potrei rifiutarle l'ultima cosa che chiede alla sua piccola bambina adorata. Ma non potremmo fare di testa nostra, May. Tu vuoi una fuga d'amore? Beh, se credi, perché no? Tu mi ami, vero Newland? Sono così felice. Perché non esserlo di più? Non potrei essere più felice di così. Ti ho detto che ho mostrato l'anello a Ellen. Dice che è la più bella montatura che abbia mai visto. Che non se ne vedono di simili nemmeno a Rue de la Paix. Io ti amo, Newland. Tutto ciò che fai è così particolare. Email audiogrammi @radio24.it. Circa un paio di settimane dopo, Newland Archer, mentre era seduto senza far niente nel suo ufficio privato presso lo studio legale nel quale lavorava, fu convocato dal titolare. Il vecchio signor Letterblair lo invitò a cena per discutere di lavoro. Vorrei il vostro parere legale su una questione piuttosto delicata. La contessa Olenska vuole citare in giudizio il marito per ottenere il divorzio. Si dice che abbia intenzione di risposarsi, anche se lei lo nega. Dato il mio... Vi chiedo scusa, signore, ma dato il mio fidanzamento, non sarebbe meglio affidare il caso a qualche altro collega dello studio? Ma è proprio in virtù della vostra futura parentela e per il fatto che diversi membri della famiglia hanno chiesto il vostro intervento che vorrei che esaminaste il caso. È una questione familiare. Forse è meglio che sia regolata dalla famiglia. Oh, la loro posizione è chiara. Sono tutti, e giustamente, contrari al divorzio. Ma la contessa Olenska insiste per avere lo stesso un parere legale. Ma infine che senso avrebbe un divorzio? Lei è qui, lui è laggiù, con l'intero Atlantico a dividerli. Per come vanno le cose, Olenski si è comportato generosamente. Ha già restituito parte del denaro senza che gli fosse chiesto. Non otterrà un solo dollaro in più, Ellen. Anche se mi dicono che non è affatto attaccata al denaro. Alla luce di tutto questo, la cosa più saggia, mi sembra, è fare ciò che dice la famiglia. Lasciare le cose come stanno. Credo che debba essere lei a decidere. Avete valutato le conseguenze se la contessa decidesse per il divorzio? Conseguenze per la contessa? Per tutti. Credo che le accuse del conte non siano altro che delle vaghe recriminazioni. Provocheranno pettegolezzi. Ho sentito cosa dicono della contessa e del suo segretario. Lo sapevo anche prima di leggere l'incartamento. È senz'altro una cosa spiacevole. Spiacevole? Il divorzio è sempre spiacevole. Non ne convenite? Naturalmente. Dunque posso contare su di voi. La famiglia può contare su di voi. Cercherete di convincerla a non divorziare? Non posso prometterlo. Prima devo parlare con la contessa. La cameriera di Madame Olenska aprì la porta sorridendo. Quando Archer entrò in salotto, trovò Julius Beaufort che stava sorridendo e guardando verso la sua ospite, cercando di convincerla a non accettare l'invito ad andare nella casa dei van der Leyden per il fine settimana e di unirsi a lui per una cena. La contessa prese tempo per pensarci e lo congedò, facendo capire che doveva discutere di affari con Archer. 3 giorni a Skytercliff con i van der Leydens. Portatevi le pellicce e una boule d'acqua calda. È così fredda la casa? No, ma Luisa sì. Signor Archer. Venite con me da Delmonico domenica invece. Darò una cena a base di ostriche in vostro onore. Sala privata, una compagnia congeniale, artisti e così via. È molto allettante, non ho incontrato un solo artista da quando sono qui. Conosco un paio di pittori che potrei presentarvi, se me lo permettete. Pittori? Ci sono dei pittori a New York. Vi ringrazio, ma veramente stavo pensando a dei cantanti, attori, musicisti, artisti di palcoscenico. Ce n'erano sempre tanti a casa di mio marito. Posso scrivervi domani e darvi una risposta? È tardi stasera per decidere. È già tardi? Sì, perché devo ancora discutere di affari con il signor Archer. Ah, naturalmente, Newland. Se riuscite a far cambiare idea alla contessa riguardo a domenica, potete venire anche voi. Voi conoscete dei pittori? Vivete nel loro ambiente? Non esattamente. Però vi interessate di pittura? Enormemente. Quando sono a Parigi o a Londra non perdo mai una mostra. Oh. Cerco di tenermi informato. Anch'io le amavo immensamente. La mia vita era piena di queste cose, ma... Ora voglio liberarmi della mia vita passata, diventare un'americana perfetta e cercare di essere come tutti gli altri. Non credo che voi sarete mai come tutti gli altri. Non dite così, vi prego. Voglio solo lasciarmi il passato dietro le spalle. Lo so. Il signor Letterblair me l'ha detto. Il signor Letterblair? Sì, sono qui perché me l'ha chiesto lui. Lavoro nel suo studio. Volete dire che sarete voi a occuparvi di tutto per me? Posso parlare con voi? Sarà molto più semplice. Sì, sono qui appunto per parlarvene. Ho letto tutto il vostro incartamento. E la lettera del conte. È stato un vile. Ma se egli decide di opporsi, può dire cose che potrebbero essere sgradevoli per voi, dirle pubblicamente. Cose che potrebbero danneggiarvi, anche se fossero infondate. E che danno potrei ricevere qui da quelle accuse? Forse un danno maggiore che in qualunque altro posto. Vedete, la nostra legislazione ammette il divorzio, ma le convenzioni sociali no. Mai? Beh, non se contro la donna esistono delle apparenze... anche solo minimamente sfavorevoli, se si è esposta con un comportamento, diciamo, non del tutto convenzionale. Insinuazioni offensive. Sì, è quello che mi ha detto la mia famiglia. la nostra famiglia, presto sarete mio cugino. E voi siete d'accordo con loro? Ma cosa potreste guadagnarci che compensasse lo scandalo? La mia libertà. Ma non lo siete già, libera? Io vorrei tanto aiutarvi. Mi state aiutando. Buonanotte, cugino. Dimenticate ciò che ho fatto. Ad una condizione. L'accetterò, qualunque essa sia. Non pronunciate più parole d'amore in mia presenza. Mai. Quella sera al teatro Wallach c'era una ressa strabocchevole. Newland vide Madame Olenska seduta in un palchetto insieme ai Beaufort, a Lawrence Lefferts e a Sillerton Jackson. La signora Beaufort lo aveva riconosciuto e gli aveva rivolto un piccolo gesto d'invito. Perciò Newland non poté fare a meno di entrare nel palchetto. Si sedette dietro Madame Olenska. A fianco il signor Sillerton Jackson stava descrivendo alla signora Beaufort, in tono sommesso e confidenziale, il ricevimento dato la domenica precedente dalla vedova di Lemuel Struthers, durante il quale si diceva che alcune persone avessero ballato. Approfittando della copertura di questa cronaca di secondaria importanza, Madame Olenska si girò verso Newland e gli parlò sottovoce. Voi credete che il suo amante le invierà una confezione di rose gialle domattina? Io mi stavo chiedendo la stessa cosa. La scena dell'addio. Sì, lo so. Commuove sempre anche me. Di solito lascio il teatro dopo quella scena per portare via con me quell'immagine. Ho ricevuto una lettera di May da Santo Augustine. Ah, loro trascorrono sempre l'inverno lì, per via della bronchite della madre. E voi cosa fate quando May è lontana? Ho il mio lavoro. Voglio che sappiate che ciò che mi avete consigliato era giusto. Le cose a volte possono essere così difficili e io vi sono molto grata. Concluse lei, portando rapidamente agli occhi il binocolo da teatro nel momento in cui la porta del palchetto si apriva e la voce rimbombante di Beaufort li investiva. Archer si alzò e uscì dal palchetto e dal teatro. Il mattino dopo, Archer vagò per la città nella vana ricerca di altre rose gialle. Arrivato in ufficio, inviò tramite un fattorino un biglietto a Madame Olenska per chiederle se poteva andare a trovarla quel pomeriggio, pregandola inoltre di fargli avere la risposta al più presto. Ma non ricevette alcuna lettera di risposta quel giorno e neppure il giorno dopo. Quel silenzio inaspettato lo mortificò in modo irragionevole e sebbene il mattino seguente avesse visto uno splendido mazzo di rose gialle nella vetrina di un fioraio, lo lasciò dov'era. Fu solo a distanza di 3 giorni che ricevette per posta una breve comunicazione della contessa Olenska. Vide con stupore che proveniva dalla casa di campagna dei Van der Leyden. Caro Newland, sono fuggita via il giorno dopo avervi visto a teatro. E questi cari amici mi hanno accolto da loro. Volevo stare tranquilla e riflettere. Mi sento così al sicuro qui. Vorrei che foste con noi. Con sincero affetto. Newland aveva ricevuto l'invito a trascorrere la domenica con i Lefferts nella loro casa sull'Hudson e si affrettò a rispondere. La loro casa era a poche miglia da quella dei Van der Leyden. Si fece prestare una slitta leggera e raggiunse la casa dei Van der Leyden. Vide Ellen mentre camminava nella neve e le andò incontro. Sono qui per scoprire da cosa siete fuggite. Sapevo che sareste venuto. Vuol dire che lo desideravate. Ha scritto la cugina May, vi chiede di aver cura di me. Non c'era bisogno che lo chiedesse. Perché? Volete dire che sono così debole e indifesa? O che le donne qui sono così fortunate da non sentirne la necessità? Necessità di cosa? Vi prego, non chiedetemelo, io non parlo la vostra lingua. Stavano passeggiando davanti alla vecchia casa padronale con i muri tozzi e le piccole finestre quadrate. Le persiane erano spalancate. Anche se era vuota, il padrone di casa l'aveva lasciata aperta per farla visitare alla contessa. Entrarono e si misero davanti al fuoco. Quando mi avete scritto eravate infelice. Sì, ma non posso sentirmi infelice quando siete qui. Non resterò a lungo. Lo so. Ellen, se volevate davvero che venissi, se devo aiutarvi veramente, dovete dirmi da cosa fuggite. Per tenerla lontana dai suoi sensi, si allontanò dal focolare, mettendosi a scrutare fuori dalla finestra. Ellen tacque a lungo e in quell'intervallo Archer la immaginò, quasi la udì, muoversi furtivamente dietro di lui per gettargli le sue delicate braccia attorno al collo. Mentre aspettava, fremendo nello spirito e nel corpo, che il miracolo si compisse, i suoi occhi captarono automaticamente l'immagine di un uomo che indossava un pesante cappotto con il collo di pelliccia sollevato e che percorreva il sentiero in direzione della casa. Quell'uomo era Julius Beaufort. Madame Olenska balzò in piedi e gli si mise a fianco, facendo scivolare la sua mano in quella di lui. Ma dopo un'occhiata attraverso la finestra, si fece pallida in volto e indietreggiò. Era da lui che stavate fuggendo? O lo aspettavate? Non sapevo che fosse qui. Salve, Beaufort. Da questa parte, Madame Olenska vi stava aspettando. Salve. Beh, mi avete costretto a darvi la caccia. Tutta questa strada solo per dirvi che ho trovato il nido perfetto per voi. Oh. Non è ancora sul mercato, quindi dovete prenderlo subito. Allora, Archer, si villeggia? Quella sera si sentiva male. Il gusto delle solite cose sembrava cenere nella sua bocca e c'erano momenti in cui aveva la sensazione di essere sepolto vivo nel proprio avvenire. Dopo qualche giorno ricevette la lettera della contessa Olenska. Newland, venite domani sul tardi. Devo spiegarvi. Ellen. C'erano molti modi per rispondere e li considerò tutti durante la veglia di una notte agitata. Quello su cui al mattino alla fine cadde la sua scelta consistette nel ficcare alcuni capi di vestiario in una valigia e saltare a bordo di una nave. Salpava per St. Augustine, verso la residenza dove la famiglia della sua fidanzata, May Welland, stava trascorrendo il suo periodo di riposo lontano dal freddo newyorkese. Newland! È successo qualcosa? Sì, ho sentito che dovevo vederti. Mentre camminava a fianco di Archer con il suo lungo passo elastico, il suo volto presentava la serena inespressività di un giovane atleta di marmo. Per i nervi tesi di Archer, quella visione era calmante. Si sedettero su una panchina sotto le piante d'arancio ed egli la abbracciò e la baciò. Forse l'aveva baciata con più veemenza di quanto volesse, perché May arrossì tutta e si tirò indietro. Poi le chiese cosa stesse facendo in quelle giornate e May cominciò con un elenco di nuotate, racconti sul tennis e sulle famiglie che risiedevano nella locanda, finché lui non la interruppe. Affidabile. Forse potremmo giocare noi due. Ma io pensavo... Sono venuto qui perché credevo di riuscire a convincerti a venire via da tutto questo, per anticipare il nostro matrimonio. Ma non capisci quanto io desideri sposarti. Perché dobbiamo sprecare un altro anno a sognare? Non sono sicura di capire bene, Newland. È perché non sei certo di provare gli stessi sentimenti per me? Cosa vuoi dire, May? C'è qualcun'altra, forse? Qualcun'altra? Tra te e me? Parliamoci francamente, Newland. Ho avvertito un cambiamento in te, soprattutto dal nostro fidanzamento. Dal nostro fidanzamento? Ma se non è vero, non ci farà male parlarne. E se è vero, allora perché non dovremmo parlarne adesso? Insomma, potresti aver fatto uno sbaglio. Se avessi fatto uno sbaglio, sarei qui a chiederti di affrettare il nostro matrimonio. Non lo so, può darsi. Sarebbe un modo per risolvere la questione. A Newport, 2 anni fa, prima della nostra promessa, tutti dicevano che avevi un'altra donna. Vi ho persino visti insieme una volta, seduti vicini su una veranda a un ballo. Qui, è soltanto questo che ti preoccupa. Appartiene al passato. Allora ci deve essere dell'altro. Assolutamente no. Comunque stiano le cose, Newland, io non voglio costruire la mia felicità su un torto fatto a qualcun altro. È quello che sto cercando di dire. Non c'è nessuno tra noi, non c'è niente che ci divida, May. Ed è esattamente questo il motivo per cui voglio che ci sposiamo. Al più presto. Mentre si fronteggiavano, gli sembrò che lei crescesse nella sua statura e dignità di donna, con una grande profondità di sentimento. Una volta rassicurata, però, sembrò che lei fosse discesa dal suo piedistallo di donna per tornare in uno stato di innocente inespressività fanciullesca. Tornò ad essere una fanciulla indifesa e timorosa, ed era meraviglioso che tale profondità potesse convivere con una totale mancanza di immaginazione. Archer era partito da St. Augustine con una serie di messaggi per la vecchia signora Mingott e un paio di giorni dopo il suo arrivo in città andò a trovarla e le raccontò del suo tentativo di anticipare le nozze. E ci siete riuscito? No, ma vorrei sempre sposarmi in aprile col vostro aiuto. Ora comprendi come sono fatti i Mingott. È davvero una cosa così complicata? È tutta la famiglia che è complicata. Nessuno di loro vuole essere diverso dagli altri. E quando sono differenti finiscono come i genitori di Ellen. Nomadi, girovaghi per l'Europa, trascinandosi dietro Ellen, colmandola di un'educazione costosa ma incoerente. Tu hai lo sguardo sveglio. Perché mai non hai sposato lei? Beh, intanto perché non era qui e poi non era libera. No, questo è vero. E non lo è neanche adesso. E come se non bastasse, c'è anche il rimorso di un marito colpevole. Preferirei vederla morta. Dici davvero? Non dimenticare che il matrimonio è il matrimonio e che Ellen è ancora una moglie. Le porte si aprirono alle sue spalle e Madame Olenska entrò sorridendo. Ellen, guarda chi c'è! Sono passata da vostra madre per chiederle dove eravate finito. Dato che non avete mai risposto al mio biglietto, temevo che foste ammalato. Aveva una gran fretta di sposarsi, ecco perché. Appena sceso dal treno è corso qui. Bene. Di sicuro, nonnina, possiamo convincere Welland a fare ciò che desidera. Ecco, Newland, hai visto? Va dritta al nocciolo del problema, come me. Gli ho detto che avrebbe dovuto sposare te. E lui cosa ha detto? Oh, mia cara, questo lo lascio scoprire a te. Vorrei potermi trattenere. Newland. Ma vi vedrò prestissimo, spero. Buonasera. Bene. Vi accompagno. Quando posso vedervi? Entrò a casa di Madame Olenska e la vide vestita come per andare a una festa da ballo. Tutto sulla sua persona scintillava e brillava delicatamente. Disse alla cameriera di chiamarla quando sarebbe arrivata la carrozza che veniva a prenderla per la serata. Sapete, in tutto quello che dice c'è sempre qualcosa di vero e qualcosa di non vero. Perché? Che cosa vi ha detto la nonna? Credo pensi che dovreste tornare da vostro marito. Credo che pensi che dovreste perlomeno considerare la cosa. Si sono sempre pensate molte cose di me. Ma se la nonna pensa che io dovrei considerare la cosa, significa che lei la ritiene possibile. Così come sta valutando la vostra idea di anticipare il matrimonio. Io e May ci siamo parlati con franchezza in Florida. Forse è per la prima volta. Lei vuole un fidanzamento lungo per darmi tempo. Tempo per che cosa? È convinta che io la voglia sposare subito per sfuggire a qualcuna che mi sta più a cuore di lei. Il tempo di abbandonarla per un'altra donna? Se io volessi. È molto nobile. Sì, è ridicolo. Perché? Perché non c'è un'altra donna? No, perché non intendo sposare nessun'altra. E quest'altra donna? Anche lei vi ama? Non c'è nessun'altra donna. La persona alla quale May stava pensando non è mai... Deve essere la vostra carrozza. Io credo che dovrò andarmene tra poco. Dalla signora Struthers? Sì. Devo andare dove sono stata invitata o rimarrò troppo sola. Perché non venite con me? Archer sentì che doveva tenerla accanto a sé ad ogni costo. Le si sedette accanto sul divanetto vicino al fuoco. Le prese una mano, ma lei si alzò e si allontanò non appena Newland pronunciò le prime parole. May era nel giusto. C'è un'altra donna. Solo che non è quella che lei crede. Non mi fate la corte, l'hanno già fatto in troppi. Non vi ho mai fatto la corte, ma avrei sposato voi se fosse stato possibile per entrambi. Dite questo quando voi l'avete reso impossibile. Io l'ho reso! Non sei stato tu a farmi rinunciare al divorzio. Non sei stato tu a parlarmi qui, in questa casa, di come avrei dovuto sacrificarmi per evitare lo scandalo. E per il bene di me e per il tuo ho fatto quello che mi avevi chiesto. C'erano dei particolari nella lettera di tuo marito. Non avevo niente da temere da quella lettera, assolutamente niente. Avevo solo paura di uno scandalo per la famiglia, per te e per me. Dicendo così, Ellen si lasciò cadere di nuovo sul divano, piangendo, con una mano sugli occhi. Ellen. Newland si avvicinò lentamente. Ellen, non c'è niente che non possa essere ancora fatto. Io sono ancora libero. Anche tu puoi esserlo. Ti prego. Si avvicinò a lei, la teneva tra le braccia. Il volto di lei sembrava un fiore al contatto delle sue labbra, mentre tutti i loro inutili terrori si dileguavano come fantasmi al sorgere del sole. Ellen ricambiò il suo bacio, ma un istante dopo lo spinse da parte e si alzò. Come potrei sposare May ora? Tu mi vedi sposare May adesso? Non credo che rivolgerai a May questa domanda, vero? Ma devo farlo. È troppo tardi per qualsiasi altra cosa. Lo dici perché è la cosa più facile da dire in questo momento, non perché sia vero. Io non ti capisco, Ellen. Non capisci perché ancora non ti rendi conto di quanto tu abbia cambiato la mia vita. Tu non sai tutto quello che hai fatto. Cosa ho fatto? Tutte le cose buone che hai fatto per me, Newland, e non ho mai saputo. Andare dai Van der Leidens perché la gente si rifiutava di incontrarmi. Annunciare il tuo fidanzamento al ballo, così avrei avuto due famiglie a sostenermi invece di una. Non avevo mai compreso quanto tutti mi ritenessero riprovevole. La nonna un giorno se l'è lasciato sfuggire. Ero una stupida, io non ho mai pensato. New York significava la libertà per me. Tutti sembravano così gentili e felici di vedermi. Nessuno di loro sapeva davvero cosa voleva dire la tentazione, ma tu sì. Io non sapevo tutto questo. Ed è la cosa più bella che abbia mai imparato. Ogni sua parola, via via che lei la pronunciava, cadeva sul petto di lui come piombo fuso. Tutt'a un tratto si inginocchiò e le baciò la scarpetta. Ellen si chinò su di lui, poggiandogli le mani sulle spalle. Rimasero così, immobili e abbracciati. Non accetteresti mai una felicità raggiunta con la crudeltà. Se agissimo in qualsiasi altro modo, ti farei andare contro ciò che più amo in te. E io non posso tornare a quel modo di pensare. Lo vedi? Non posso amarti se non rinuncio a te. All'esterno del salotto si udì la cameriera dirigersi verso la porta e aprirla. Un attimo dopo la domestica entrò con un telegramma che porse la contessa Olenska. La sua padrona sorrise e prese la busta gialla, l'aprì e l'avvicinò alla lampada. Poi diede il telegramma ad Archer. Era di May, da St. Augustine, e indirizzato alla contessa Olenska. Newland lesse le parole della sua fidanzata. Ellen, il telegramma della nonna ha avuto effetto. La mamma consente al matrimonio dopo Pasqua. Manca solo un mese. Telegraferò a Newland. Sono troppo felice per dire altro. Sei nel mio cuore, la tua riconoscente cugina May. Archer accartocciò il foglio giallo come se con quel gesto fosse possibile annullare la notizia che conteneva. Fine primo tempo. Il secondo tempo de L'età dell'innocenza, domenica prossima alle 20:15. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.